facile perdersi senza pratica. Se il desiderio è finito ormai, torna in vendita per me. Sei di là, laddove anche il più semplice si perde. Ti chiedo cosa vuoi ma non rispondi. Instabile equilibrio sul tuo volto, si legge dalle palpebre. Crescere sembra impossibile senza te. È un vuoto a perdere anche se ci pensa solo il tempo a portarti via da me. Basta un respiro che precede una bugia. Sembra che la sincerità sia una malattia, che spesso può far male, un male per davvero. Uno squarcio di sereno colorando inchiostro nero per crescere. Sembra impossibile senza te. È un vuoto a perdere anche se ci pensa solo il tempo a portarti via da me. Ogni gesto lento, ogni cambiamento, capelli e parole al vento. Resti sola con la tua innocenza che non ti perdona. Sta crescere sembrava semplice, ma senza te, senza te. Solo il tempo a portarti.